America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Beh, abbiamo qualche notizia, una notizia in realtà piuttosto interessante, piuttosto importante, e cioè che da ieri il renminbi, cioè la valuta cinese, è entrata a far parte di quel paniere di valute che determinano gli SDR, cioè gli Special Drawing Rights, cioè la valuta monetaria, l'unità monetaria del Fondo Monetario Internazionale. Ecco, un passo in avanti sul piano del multilateralismo molto importante, ed è una risposta come quella che abbiamo avuto ieri con centinaia di capi di Stato e di governo a Parigi, una risposta a chi col terrorismo cerca di intimidirci. Cioè, qual è il messaggio? Che il mondo va avanti. Comunque, non voglio parlare oggi di economia, di macroeconomia, parlerò più avanti di alcune dinamiche macroeconomiche che riguardano la Cina e che riguardano gli Stati Uniti. Oggi vorrei invece occuparmi di una manifestazione straordinariamente interessante, Ciao Italy, che si tiene a Filadelfia. A Filadelfia ci sono stato, ho incontrato coloro che l'hanno organizzata, a partire dal nostro console generale, il console generale d'Italia, appunto, di Filadelfia. E dunque lasciatemi dedicare la trasmissione di oggi invece a questi eventi di italoamericani di Filadelfia. Gli italoamericani sono dappertutto, gli italiani sono dappertutto, non solo a New York, e Filadelfia tra l'altro è una località storica da questo punto di vista per la presenza degli italiani. E dunque vi farò ascoltare un reportage, come se fosse in diretta, facciamo finta che sia in diretta, da Filadelfia. Ciao Philadelphia, the birthplace of America, a city enriched in Italian culture and home to one of the largest Italian-American populations in the country. Ecco, tra l'altro questa iniziativa ha trovato spazio nelle televisioni americane, televisioni locali naturalmente, e l'inaugurazione è stata spettacolare perché eravamo su questo yacht Vivere, di proprietà di Phil Rinaldi, che è principal partner, uno degli investitori, amministratore delegato della Philadelphia Energy Solution, da dove è partita una crociera di inaugurazione lungo il fiume Delaware che separa la Pennsylvania dal New Jersey, e sullo sfondo si vedeva da una parte i grandi ponti che uniscono il New Jersey alla Pennsylvania e dall'altra lo skyline di Filadelfia, che devo dire è molto molto bello, soprattutto il grattacielo di Comcast, la grandissima società di comunicazioni che appunto ha sede a Filadelfia. Bene, quali sono stati questi eventi? 60 eventi, tra cui visite all'Independence Mall, Union League, uno dei più importanti club, tra l'altro guidato da un italoamericano, cosa che non era mai successa, per la parte più storica, visite al Philadelphia Museum of Art, Philadelphia Academy of Fine Arts, degustazioni, cibo italiane, musica naturalmente, anche su Vivere c'è stata una cantante d'opera che ci ha intrattenuto, devo dire, in mezzo a delle folate di vento piuttosto violente, conferenze alla St. Joseph University, concerti con la Traviata di Verdi all'Academy of Music, esposizione di auto Ferrari, Alfa Romeo, Bugatti, dalla collezione del Simon Foundation Automotive Museum, perché uno degli italoamericani che ha partecipato, che ha anche finanziato, perché poi tutte queste operazioni sono state finanziate e appoggiate dagli italoamericani, e qui torniamo all'importanza del ponte che dobbiamo costruire, rafforzare con gli italiani di America. Ecco, con alcuni di loro ho parlato. Cominciamo da Phil Rinaldi, che è un personaggio alquanto straordinario per il grande successo industriale che ha avuto soprattutto nell'area di Filadelfia. Ma sentiamolo prima che ci racconta la sua storia. So Philadelphia has always been, you know, something of an afterthought, but coming here to do this, I am enormously impressed with business in Philadelphia. It's a city at the moment standing really on the edge of a true renaissance. Ecco, Phil, che è un uomo di grande vitalità, mi racconta che lui viene dal New Jersey, dove è cresciuto, dice, dove ho passato la maggior parte dei miei anni, dove ho iniziato la mia carriera prima di sposarmi a New York. Però Filadelfia è sempre stato per me un punto di domanda, ero molto interessato, venivo spesso a fare business e sono sempre stato molto colpito, perché questa è una città che sta vivendo un momento meraviglioso, è una sorta di rinascita, c'è una grande energia, una vitalità che ti contagia, elettrizzante. Ecco, qual è stato il business di Phil Rinaldi? È un business molto importante. Ha rilevato le raffinerie della Sunoco, che è una delle più importanti compagnie petrolifere americane, e da queste raffinerie, pensate, partivano le forniture di benzina per buona parte del nord-est, quindi stiamo parlando di volumi enormi. Se non che queste raffinerie erano gestite molto male, erano in perdita e su uno che aveva deciso di chiuderle. Beh, è stato un gran pasticcio, perché si rischiava di perdere migliaia di posti di lavoro, si rischiava una crisi energetica. Fin Rinaldi ha dei contatti molto importanti a Washington, anche con Carlyle, che è una grande finanziaria americana, una delle più importanti società di private equity in America, e ha fatto una proposta: cerchiamo di salvare i posti di lavoro, di rilevare queste raffinerie e di rimetterle a nuovo. Come? Sfruttando l'invio di petrolio greggio in arrivo dal nord, in arrivo dal Dakota, in arrivo dalle nuove estrazioni del shale gas e dello shale oil. La cosa interessante è stata che in quei mesi c'era la campagna elettorale, c'era Barack Obama che correva per le presidenziali americane. Barack Obama, come sapete, ambientalista, per l'energia rinnovabile, dunque contro l'utilizzo del petrolio, eppure in questo caso ha finito per dare una sua adesione a questo progetto. Perché? Perché si sarebbero salvati migliaia e migliaia di posti di lavoro. Insomma, l'affare si è fatto e Phil Rinaldi, questo straordinario italo-americano, ha organizzato lo shipment, l'invio di centinaia di migliaia di barili dal nord degli Stati Uniti a Filadelfia. Pensate che ogni giorno ci sono treni che portano petrolio a Filadelfia per la fine della Sunoco, che sono lunghi 5, il convoglio, sono due convogli complessivamente, questi convogli sono lunghi 5 miglia. L'operazione ha funzionato, le raffinerie sono tornate inutili e il signor Rinaldi si gode questo meraviglioso yacht, tra l'altro costruito in un cantiere italiano, con marmi italiani, con una lavorazione interna straordinaria, diventando uno dei personaggi chiave non solo della comunità italoamericana, ma direi della città. Sentiamo Joe Del Raso, personaggio importantissimo, non solo di Filadelfia, un avvocato, ma anche presidente della National Italian American Foundation, quindi del NIAF, della più importante confederazione di associazioni italoamericane in America. Sentiamo. Before the Revolutionary War, the arts and culture, Italians were here in this city, in music and art. I think, if I remember correctly, there was a well-known violin maker who came here from Italy in the 18th century. Del Raso mi dice che la cultura italiana arriva a Filadelfia prima della guerra di indipendenza, nel 18 secolo, e dice: se ricordo bene, l'arte, la musica italiana fu introdotta da un famoso liutaio che era specializzato nella costruzione e nella produzione di violini. Era venuto qui dall'Italia e diede un grandissimo contributo al movimento musicale di Filadelfia. A distanza di anni, poi questa sua opera è diventata sempre più significativa, la comunità italiana si è sempre più coinvolta in queste manifestazioni artistiche e ancora adesso lasciano gli italoamericani un'impronta molto significativa nella cultura musicale di Filadelfia. Per esempio Frank Giordano, presidente di una scuola d'arte a Filadelfia, studio Incamminati, e soprattutto il console Canepari. Sentiamolo. Ciao Filadelfia è un mese della cultura italiana che raggruppa le principali istituzioni culturali della regione, dai grandi musei alle grandi università, al Parco Nazionale americano dell'indipendenza americana, dove è stata firmata Costituzione e Dichiarazione di Indipendenza, per mettere insieme gli italiani, gli italoamericani e gli amici dell'Italia, far capire qual è il contributo culturale italiano sin dalla fondazione di questa città, far capire il successo degli italoamericani e far comprendere le potenzialità di un dialogo concreto tra Italia e questa regione nei campi dove Filadelfia è più forte, quindi la ricerca scientifica, la ricerca biomedica, le scienze della vita, e in ogni settore dove la città è forte stiamo creando dei contatti con l'Italia, cose concrete per far conoscere. Se non c'è consapevolezza manca appunto l'attenzione, si perdono opportunità. Filadelfia è tutto. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!